L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, bentornato anche a uno dei nostri ospiti che tra poco vi presentiamo e che è già stato in passato con noi per parlare di un importantissimo settore italiano, ovvero parliamo di riciclo della carta. Perché? Perché oggi si conclude una manifestazione di 3 giorni che si chiama Riciclo Aperto, che ha coinvolto un centinaio di aziende della filiera del riciclo di carta e cartone. Quindi diamo il benvenuto a Carlo Montalbetti, che è il direttore generale di Comieco. Bentornato Montalbetti. Buongiorno a voi. E poi abbiamo con noi anche Francesco Canal, direttore dello stabilimento cartiera Santa Giustina Reno Medici in Belluno. Dico bene? Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Lo stabilimento della Reno de Medici di Santa Giustina. Reno de Medici, quindi stiamo parlando della provincia di Belluno, ma lei è uno appunto, dirige uno degli stabilimenti che hanno aderito a questa manifestazione, che prego Montalbetti di presentarci, perché è comunque una manifestazione che ha lunga tradizione e appunto grande coinvolgimento delle imprese del settore, ma anche di pubblico. Assolutamente, direi che anzi in questi 11 anni abbiamo avuto un crescendo di partecipazione, stimiamo almeno in una presenza, ripeto, in questi anni di circa 300.000 visitatori, e per quanto riguarda questa edizione penso che potremo anche superare i 20.000 visitatori. Addirittura 20.000. Non ho detto che il Comieco è il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, che diciamo io ho dato un po' per scontato perché siete molto noti, ma insomma è giusto esplicitarlo agli ascoltatori. Francesco Canale invece ci dice come vi siete organizzati voi internamente per appunto portare il pubblico all'interno dello stabilimento? Innanzitutto lo stabilimento sta funzionando, quindi stiamo svolgendo il normale lavoro quotidiano, perché la cartiera lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ci siamo organizzati accogliendo i visitatori a gruppi di 15-18 persone con un accompagnatore che illustra loro la sequenza delle lavorazioni che permettono il recupero della carta recuperata nelle piattaforme, quindi della raccolta cittadina e non solo, per poi ridar vita a questo macero e trasformarlo in cartoncino patinato per gli imballaggi, che è quello che noi produciamo a Santa Giustina. Per immaginare, per dare così corpo a quello che è il nostro prodotto, per chi ci ascolta, stiamo parlando delle scatole che abbiamo in casa quotidianamente, della pasta, del riso, dei giocattoli, del pigiama, della camicia e quant'altro. Quindi chi viene lì può vedere tutto questo, dalla carta, diciamo, che proviene appunto dalle raccolte, fino alla produzione di questi imballaggi, giusto? Sì, assistono in diretta a quello che è per noi il ciclo normale di produzione del cartoncino patinato. Mm. Senta Montalbetti, noi siamo maestri nella raccolta della carta in Italia, se non ricordo male, vero? Sì, siamo in Europa al secondo posto dopo i tedeschi. E per quanto riguarda l'utilizzo di macero nel settore dell'imballaggio, sicuramente i primi in Europa. Prima vi raccontava il direttore dello stabilimento di Santa Giustina il ciclo. Beh, tenete conto che gli imballaggi italiani che poi escono dalla produzione per il 90% sono fatti con carta e cartone di riciclo, che è un dato già primato. Ed è un dato apprimato perché l'Italia è un paese ricco ma di boschi poveri, cioè non produciamo la fibra vergine, e quindi nel tempo siamo diventati dei grandi esperti nelle tecnologie del riciclo, soprattutto nelle ricette che poi in cartiera permettono di assemblare diverse qualità di maceri sino a produrre con materiale di riciclo carte e cartoni di prima qualità. Se guardiamo un altro evento della settimana per voi, cioè la presentazione del rapporto il riciclo eco-efficiente, c'è un'ampia fetta dedicata anche alla carta, e vediamo che noi raccogliamo più carta di quanta poi non ne possiamo riutilizzare, al punto da portarla all'estero. Esatto, infatti questa è stata, direi, il risultato più importante di questi 11 anni di attività di Comieco, perché abbiamo dato una mano, credo in modo importante, allo sviluppo delle raccolte differenziate. 11 anni fa portavamo dall'estero circa 1 milione di tonnellate di macero indispensabili per il lavoro delle cartiere. Oggi non solo abbiamo macero a sufficienza, ma come appunto stava dicendo lei, persino lo esportiamo. Il valore importante rispetto per esempio alla Gran Bretagna, che è una grande esportatrice di maceri, è che noi però industrialmente abbiamo una rete industriale molto importante, sono dei campioni nazionali nell'economia verde, le cartiere, i trasformatori e le stesse piattaforme che selezionano, che io penso dobbiamo guardare con grande attenzione proprio perché rappresentano una leva importante dal punto di vista occupazionale e del fatturato. Allora ne approfittiamo, a proposito di occupazione, chiediamo al direttore dello stabilimento quante persone lavorano in uno stabilimento come il suo. A Santa Giustina lavorano 240 persone, da considerare che la macchina continua lavora, come dicevo prima, a ciclo continuo, e in questo organico è compresa sia la manutenzione degli impianti elettrici e meccanici e anche il personale amministrativo. Quindi circa 200 persone, il ciclo è continuo. Quanto macero lavorate? Per avere un'idea, insomma, noi non siamo esperti. Sì, tenga conto che parla un pubblico di persone che quasi non ha visto una cartiera. Numeri, e poi cercherò di rendere plastici questi numeri. Sì. Perché se io dico che a Santa Giustina produciamo 200.000 tonnellate di cartoncino all'anno, per chi ci ascolta ha poco significato. Probabilmente ha più significato dire che di queste 200.000 tonnellate prodotte il 95%, come diceva Montalbetti, è prodotto da materiale riciclato, quindi o dalla raccolta urbana o dagli scarti di lavorazione di altre cartotecniche piuttosto che stamperie. E per rendere plastico questo numero significa produrre ogni giorno 35 camion di cartoncino. Considerato che un camion trasporta 27 tonnellate, questa è la produzione di fatto che facciamo a Santa Giustina. Sicuramente a livello europeo siamo tra gli stabilimenti più importanti per la produzione del cartoncino. Montalbetti, quali sono gli altri stabilimenti italiani? Sono dislocati in aree specifiche del paese? Sono suddivisi invece un po' dappertutto? Noi abbiamo fatto tra l'altro una ricerca con Nando Pagnoncelli di Ipsos proprio per verificare il rapporto tra industria e territorio. Abbiamo identificato, diciamo, quattro distretti. Uno che lo è a tutti gli effetti è quello della Lucchesia, che di fatto è la vera California del riciclo cartario, perché in Lucchesia vengono lavorate più di 1 milione di tonnellate di macero. Abbiamo poi quello del Nord-Est, appunto dove c'è Santa Giustina, abbiamo quello del Centro Italia che sta epicentro su Frosinone, e poi abbiamo quello, chiamiamolo, del Salernitano, o meglio dell'asse che va da Napoli a Salerno, dove abbiamo 5 impianti industriali che hanno capacità di riciclo di oltre 200.000 tonnellate. Quindi tutto, diciamo, anche per comodità, immagino, tutto il macero, tutta la carta che noi accumuliamo nel sud, penso alla Sicilia, alla Calabria, così poi dopo arriva verso Napoli? Viene lavorata in quell'area lì? Non solo verso Napoli, può finire anche in Toscana. Quello che è certo è che tutta carta e cartone che viene raccolta in Italia e che è in convenzione con Comieco viene ritirata e viene interamente riciclata. In più ai comuni viene dato un corrispettivo che per lo scorso anno si è aggirato intorno ai 90 milioni di euro. Quindi anche per il comune è un grande vantaggio raccogliere bene e consegnare bene questa carta? Non c'è dubbio, dal punto di vista dei bilanci comunali è sicuramente un ingrediente importante, ma poi bisogna tener conto che questa attività negli 11 anni da cui Comieco ha cominciato, con in particolare il riciclo aperto, l'apertura degli impianti, noi abbiamo stimato che abbiamo evitato attraverso la raccolta differenziata più di 220 discariche. Più di 220? Sì, perché tutto il materiale raccolto nel corso di questi anni è tutto materiale che diversamente, se non fosse stata fatta la raccolta differenziata, sarebbe finita in discarica e quindi più o meno avrebbe riempito 220 discariche. Senta, tornando e approfittando del famoso rapporto che dicevamo prima del riciclo ecoefficiente, com'è andata negli ultimi anni per la carta? Cioè i momenti di crisi, quelli che stiamo attraversando adesso, hanno impattato anche su questo settore e come? Allora, dal punto di vista della produzione è ovvio che c'è stata una ricaduta, perché la gelata dei consumi ha ridotto quindi per esempio l'acquisto di imballaggi per trasportare le merci. Però È indubbio che questo è uno dei settori, parlo in generale del riciclo, dell'industria del riciclo, che diciamo ha risentito di meno dal punto di vista dell'impiego della materia prima seconda, cioè ciò che è stato raccolto non è andato poi in magazzino, è stato interamente riciclato o attraverso l'industria nazionale o attraverso l'esportazione. Chi sono i maggiori esportatori? Beh, dal punto di vista del consumo, oggi significativo è sicuramente l'Estremo Oriente, in particolare la Cina e l'India, ma anche la Turchia ha un suo ruolo. Anche la Turchia? Sì, anche la Turchia. Che cosa? Ma anche la Turchia ne fa imballaggi, insomma, alla fine? Come no, certo. Tenete conto che la Turchia è uno dei pochi paesi del bacino mediterraneo che ha nell'arco di qualche anno uno dello sviluppo interno più importante, e quindi quando c'è uno sviluppo interno uno degli ingredienti fondamentali, un misuratore fondamentale, è l'imballaggio, cresce. Certo, non ci si pensa mai, però effettivamente è così, più si consuma più si imballano dei prodotti per venderli, insomma, e quindi poi dopo si ha bisogno di carta, appunto, da imballaggio. Tornando a Canal, nella sua esperienza, appunto, nel vostro impianto, l'andamento è stato quello che ci ha raccontato Montalbetti negli ultimi anni? Decisamente sì, io posso testimoniare innanzitutto quella che è la storia dello stabilimento di Santa Giustina, che ha iniziato la sua attività alla fine degli anni 60, nell'aprile del 69, e è un impianto nato già progettato per riciclare, e io posso testimoniarlo. Fino alla fine degli anni 80 noi importavamo il materiale riciclato che serviva per produrre il cartoncino a Santa Giustina, perché di fatto la raccolta differenziata, il concetto del riciclaggio in Italia, lo sappiamo tutti, è partito circa 20 anni fa, e quindi noi importavamo la raccolta che veniva fatta in Europa, in Svizzera, in Germania e anche dei paesi dell'est. Quindi sicuramente oggi invece la materia prima che noi utilizziamo, che è di fatto la raccolta cittadina, il cartone ondulato raccolto differenziato nei supermercati, giusto per essere chiari, proviene tutto quanto dal territorio italiano. Tutto dal territorio italiano, quindi insomma abbiamo evitato di andare a cercare all'estero materia che abbiamo in abbondanza in Italia. Tornando a Montalbetti, vedo dai dati che voi avete così raccolto nel corso degli anni che gli italiani hanno assai poca consapevolezza di avere questo primato. Allora, trasmissioni come la nostra ovviamente sono anche per far capire che gli italiani hanno un primato, specialmente nel settore della carta. Quanti sono quelli che credono di essere, non ricordo Montalbetti, quanti sono quelli che non lo sanno? Un bel po', vero? Sì, purtroppo abbiamo registrato che questa consapevolezza è più della maggioranza di quelli che sono stati intervistati, cioè non hanno la percezione che siamo un'eccellenza nel contesto quantomeno europeo, secondi ai tedeschi. Questo dipende dal fatto, per esempio, sicuramente che hanno fatto più effetto quelle campagne che peraltro avevano un fondamento, sia ben chiaro, rispetto all'emergenza rifiuti, quindi per ricordarlo da Napoli a Palermo a Roma, piuttosto che le situazioni virtuose che per fortuna sono la maggioranza. Sì, fortunatamente sono la maggioranza, però quelle situazioni critiche restano. Che cosa possono fare ad esempio i consorzi come Comieco per diciamo aiutare a risolvere certe situazioni di crisi? Io credo che se vi è la buona volontà da parte dell'amministrazione pubblica si possono fare tante cose. Una dimostrazione su tutte è stata Salerno. Salerno aveva qualche anno fa una raccolta differenziata molto modesta, che è radicalmente cambiata dopo un accordo preso dall'amministrazione, in particolare dal sindaco De Luca, con il sistema dei consorzi tramite CONAI. È stato sviluppato un progetto che sostanzialmente oggi è pienamente operativo, si è passati dai cassonetti al porta a porta e i risultati sono stati significativi. Quindi credo che ci siano tutte le condizioni, cominciando dalla capitale del nostro paese, per cambiare le cose. Continuiamo a parlare di carta, di riciclo, di recupero della carta, perché c'è questa iniziativa che si concluderà oggi, Riciclo Aperto. 100 aziende della filiera del riciclo di carta e cartone hanno aperto le porte ai cittadini, appunto per fare vedere quello che fanno, come funzionano le cose, come si ricicla, che cosa accade a tutta quella carta che raccogliamo e sperabilmente consegniamo ai nostri comuni perché venga riutilizzata. Abbiamo in linea con noi Carlo Montalbetti, che è il direttore generale di Comieco, e Francesco Canal, che è direttore di uno stabilimento cartiera di Santa Giustina. Tra l'altro ci scrive un ascoltatore che lì ha fatto il militare. Canal, speriamo ne serbi un buon ricordo, insomma, di questa zona. È ancora con noi, vero Canal? Sì, com'è? Sì, ci sono. Questa è una zona nella quale molti degli ascoltatori avranno prestato il servizio militare, perché Belluno è zona di caserme, di preparazione, di reclute. Eh sì, però adesso noi ne parliamo per tutt'altro motivo, perché parliamo di carta e cartone. Lei ci diceva, nel vostro stabilimento dalla raccolta, diciamo, differenziata della carta, poi si producono degli imballaggi, ma quali altri utilizzi ci sono per la carta che noi recuperiamo? Ma in particolare, già come diceva Montalbetti, tutto quello che viene raccolto viene riutilizzato. E quello che noi tocchiamo con mano quotidianamente sono proprio, direi, più del 50% degli imballi in cartoncino sono prodotti da materiale riciclato, e non ce ne rendiamo conto forse, ma ne prendiamo per le mani veramente una quantità notevole, considerevole ogni giorno, dall'animella dello Scottex piuttosto che la scatola che contiene i surgelati, o la scatola della pasta, del riso. Quando abbiamo appena aperto le scatole delle colombe, questi sono tutti quanti elementi che provengono dal riciclo della carta, dal lavoro che viene fatto dai cittadini per differenziare. Questa è una parte, chiaramente. Poi c'è l'altra parte, che sono gli scatoloni, quelli che noi conosciamo come imballi secondi, che sono destinati a contenere le scatole più piccole, quindi anche gli scatoloni che contengono altre scatole più piccole sono prodotti con materiale riciclato. Vorrei chiedere, Montalbetti, una curiosità che sicuramente sarà venuta a tanti. Allora, noi sappiamo a questo punto che raccogliamo tantissima carta, ne raccogliamo ancora di più di quanta non ne riutilizziamo internamente, per ora ce la comprano all'estero, ma non è che all'estero prima o poi diventano bravi a raccogliere la carta e non la comprano più dall'Italia, e allora a quel punto noi cosa facciamo? Ma che all'estero, penso alle grandi megalopoli della Cina e dell'India, nel tempo, forse anche in modo abbastanza rapido, siano in grado di gestire la raccolta rifiuti, in particolare quella domestica, valorizzando la frazione cellulosica, credo che sia un elemento da dare per scontato. Ciò avverrà. Che cosa significa questo? Beh, due cose. Intanto che comunque, prevedibilmente, dal punto di vista della produzione industriale, questi paesi avranno una capacità crescente, quindi una domanda che non sarà coperta, se non in tempi molto lunghi, da una raccolta nazionale. Ma secondo me la cosa più importante è un'altra, e cioè è il fatto di partire dal presupposto che noi dobbiamo non solo salvaguardare i campioni nazionali dell'industria cartaria del riciclo, quindi le cartiere, e qui ci sono alcuni interventi indispensabili da fare sul versante dei costi insopportabili che ha l'energia, o la facilitazione di modalità di smaltimento dei residui industriali che vengono dalla lavorazione, più intelligenti di quelli attuali, che purtroppo ancora oggi in gran parte sono basati sulla discarica e non sulla termovalorizzazione con cogenerazione di energia. E come farlo? Attraverso l'impiego del macero in prodotti nuovi. Facciamo un caso. Per fare i giornali oggi, rispetto a 10 anni fa, usiamo l'80% di macero. 10 anni fa era pochissimo l'uso di macero, si andava con la fibra di cellulosa vergine. E quanti sono i campi nel settore della carta grafica dove noi potremmo ulteriormente sviluppare l'impiego di macero? Probabilmente tanti. Sono molto elevati, così come nell'igienico-sanitario. Questo vuol dire che abbiamo davanti la grande sfida che riguarda il cambiamento della materia prima nella produzione di alcuni manufatti, prodotti che oggi sono sostanzialmente a base di fibra vergine. Io ringrazio i nostri ospiti e ricordo Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, Francesco Canale, direttore dello stabilimento cartiera di Santa Giustina, e continuiamo a parlare di raccolta differenziata adesso con Maurizio Melis, il nostro Mr. Kilowatt, che oggi ci parla di vetro. In moltissimi comuni italiani il riciclo di imballaggi in plastica, vetro, carta, eccetera, ormai ha raggiunto livelli di eccellenza, superando in molti casi quota 70%. Eppure non solo si può fare di più, ma si può fare soprattutto meglio. Oggi infatti alla sfida di aumentare i volumi di materiale riciclato si è aggiunta quella di aumentarne la qualità. Prendiamo il vetro per esempio. In moltissimi comuni viene raccolto insieme a materiali come alluminio e acciaio. Ciò comporta che a valle della raccolta differenziata si debba comunque effettuare una procedura di separazione. Per questa oggi esistono sistemi molto sofisticati. Computer dotati di occhi elettronici sono in grado di riconoscere i materiali di cui sono composti frammenti anche molto piccoli e di separarli, grazie a magneti, getti d'aria e altri sistemi ancora. A tutto c'è un limite però: più sono i materiali e più cicli di separazione bisogna fare. Più cicli si fanno, più il materiale si riduce in frammenti minuti, finché neanche il computer ce la fa più. Risultato: la produzione di scarti destinati alla discarica. Tanto più significativi, si può arrivare anche al 30%, quanto più sporca è la raccolta. Ancora più insidiosa è la contaminazione del vetro con materiali impropri come la ceramica e soprattutto il vetro ceramica, quello che siamo abituati a chiamare vetro Pyrex, ma che vetro non è. Assolutamente vietato buttarli insieme al vetro. Questi materiali infatti hanno un punto di fusione più elevato, così invece di liquefarsi completamente, frammenti di ceramica e vetroceramica formano ammassi collosi che nella migliore delle ipotesi portano alla produzione di bottiglie difettose che si rompono immediatamente e nella peggiore possono bloccare per ore un intero impianto industriale. Insomma, il cammino per diventare ricicloni perfetti è ancora lungo. E Mr. Kilowatt ci ha confermato quello che ci dicevano prima anche i nostri ospiti. Adesso però è il momento di Articolo 9, la rubrica che dedichiamo settimanalmente alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico italiano con Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati, abbiamo in collegamento con noi il dottor Vincenzo Tiana, che è il presidente di Legambiente Sardegna. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, lei oggi ci porta a scoprire un angolo, diciamo, particolarmente affascinante di Cagliari, della città di Cagliari, dentro la quale si trova ancora praticamente intatto un sito archeologico paesaggistico di grandissima antichità e di grandissimo fascino. Parliamo del sito di Tuvigeddu Tuvumano, spero di aver pronunciato bene. Ecco, ci descriva un attimo che cos'è questo luogo. Questo luogo si trova proprio all'interno della città di Cagliari. Cagliari, per chi arriva dall'aereo o si sarà spesso reso conto che è dominata da un sistema di colli. Sì. Sono San Michele, la Stella del Diavolo, Sant'Elia, Monte Urbino, il Castello, Buon Cammino e Monteclaro, e questo sistema Tuvigeddu Tuvumannu. Sì. Tuvigeddu Tuvumannu praticamente sono le due colline che sovrastano lo stagno di Santa Gilla, sulle cui sponde si trova proprio l'aeroporto di Cagliari Elmas, quindi per dare un'idea. Queste due colline sono molto importanti da un punto di vista della storia della città di Cagliari, perché nel periodo della dominazione fenicio-punica, stiamo parlando dell'VIII-VII secolo a.C., la collina di Tuvigeddu diventò la necropoli della città punica che stava proprio, sorgeva sulle rive dello stagno. Ah, però, poi però, ecco, la città romana, quando dopo la seconda guerra punica i romani hanno conquistato Cagliari, e hanno spostato la loro sede nell'attuale zona prospiciente il porto di Cagliari, la collina di Tuvigeddu è stata utilizzata ancora come necropoli, come può essere la via Appia Antica. Certo. A Roma. Quindi c'è questa storia, quindi del fenicio punico, poi romano, poi giudicale, poi nel periodo medievale, poi purtroppo all'inizio del 1900 c'è stata un'attività di cava che ha devastato parte della necropoli e parte della collina, asportando il calcare per fare cemento. Ecco. Quindi, però, nonostante queste devastazioni, sì, questa collina risulta ancora per 50-60 ettari non edificata, e dove si trovano valori quindi paesaggistici e panoramici, perché la collina è alta 94 metri, quindi ce ne sono dei colli, delle punti panoramici eccezionali che dominano tutto il Golfo di Cagliari, da Villa Simiuso, per chi conosce Cagliari, fino a Nora, fino a Pula. Certo. E nella collina cosa rimane di queste antiche persistenze, delle necropoli? Rimane una necropoli con mille tombe. Ecco. Rimangono ancora mille tombe visibili, quindi pensiamo quanto doveva essere grande e importante questa necropoli e soprattutto la città di cui la necropoli era collegata. Ecco, ma voi di Lega Ambiente adesso avete acceso appunto i riflettori su questo luogo, ma perché su questo luogo incombe ancora un pericolo? Ecco, cosa sta succedendo? C'è un progetto che è stato presentato 20 anni fa che prevede intorno alla zona archeologica la costruzione di 500 unità immobiliari, pensi 500 unità immobiliari più tutte le opere di infrastrutturazione, le opere di urbanizzazione, i servizi, e quindi sono circa 290.000 metri cubi, quindi veramente un'edificazione notevole intorno all'area archeologica che rischierebbe di cancellare, di trasformare questa collina, che è una montagna sacra perché si può percorrere tutta la storia della città di Cagliari, rischierebbe di trasformare quest'area in un giardinetto condominiale al servizio dell'edificazione privata. Ecco, e voi avete intenzione naturalmente di contrastare questa assurda... Fortuna di tutte queste unità immobiliari si è costruito solo piccolissime porzioni, per cui abbiamo raccolto mesi scorsi oltre 5.000 firme a sostegno di un progetto per istituire un grande parco archeologico paesaggistico Tubigento Fumano. È stato fatto proprio da un gruppo di consiglieri regionali. Perfetto. E depositato al consiglio regionale. Abbiamo anche chiesto l'attivazione anche di consistenti risorse finanziarie sia al governo che alla regione Sardegna per fare un grande parco, tutelare e valorizzare questa grande area. E proprio in questi giorni, 21 e 22 aprile... Ecco, appunto, oggi e domani cosa facciamo? Possiamo venire a vedere? Sì, tutti i visitatori possono venire, ci sono le nostre guide che accompagnano tutti i visitatori a scoprire. Per qualcuno è proprio una scoperta di un angolo che, nonostante sia all'interno della città, certo, nel cuore, una collina dimenticata. Benissimo, dottor Tiana, io la ringrazio molto per questa testimonianza e anche per questa opportunità di scoprire un angolo nascosto e così importante, storicamente così importante, della bella Cagliari. Grazie, dottor Tiana. Grazie a voi, grazie. E un ringraziamento a tutti gli ascoltatori. Un ringraziamento anche a Marco Carminati. Siamo giunti al termine di questa puntata. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.